Mi par d'essere condannata a riappezzare, a riappiccare, a riunire, a ricomporre i frammenti di un sogno, del quale una parte sia per avverarsi, confusamente, fuori di me, e l'altra si agiti confusamente in fondo al mio cuore. 19 settembre. Altra tortura. Qualcuno mi cantò gran tempo indietro e non terminò la sua canzone. Qualcuno ora mi canta, riprendendo la canzone dal punto in cui fu interrotta. Ma da gran tempo io ho dimenticato il principio. 20 settembre. Oggi, dopo la colazione, Andrea Sperelli ha fatto a me e a Francesca l'invito di andare a vedere nelle sue stanze i disegni che gli giunsero ieri da Roma. Si può dire che tutta un'arte sia passata oggi sotto i nostri occhi. Tutta un'arte studiata e analizzata dalla matita di un disegnatore. Ho avuto uno dei più intensi godimenti della mia vita. Questi disegni sono di mano dello Sperelli. Sono i suoi studi, i suoi schizzi, i suoi appunti, i suoi ricordi presi qua e là in tutte le gallerie d'Europa. Sono, dirò così, il suo breviario, un meraviglioso breviario, nel quale ogni antico maestro ha la sua pagina suprema. La varietà della tecnica è ingegnosissima. Talvolta la matita sanguigna par che contenga porpora, la matita nera dà un segno vellutato, il bistro è caldo, fulvo, biondo, di un colore di tartaruga fina. Mi par d'essere inebriata d'arte. Ho il cervello pieno di mille linee e di mille figure, e in mezzo al tumulto confuso vedo pur sempre le donne dei primitivi, le indimenticabili teste delle sante e delle vergini, quelle che sorridevano alla mia infanzia religiosa, nella vecchia Siena, dai freschi di Taddeo e di Simone. Ad una oggi passavano le donne dei primitivi sotto i nostri occhi. Io e Francesca eravamo sedute in un divano basso, avendo dinanzi a noi un gran leggio sul quale posava la custodia di cuoio con i disegni, che il disegnatore seduto intorno svolgeva lentamente, commentando. Quando io facevo un'esclamazione di meraviglia, egli mi guardava con un sorriso che ancora ho presente e che non so definire. 2 o 3 volte Francesca ha appoggiato il braccio sulla spalla di lui con familiarità, senza badarci. Vedendo la testa del primogenito di Mosè presa dal fresco di Sandro Botticelli nella Cappella Sistina, ella ha detto: «Ha un po' della tua aria quando sei malinconico». 21 settembre. Ahimè, bisogna pur sempre ricominciare l'opera dura, risalire l'erta già salita, riconquistare il suolo già conquistato, ricombattere la battaglia già vinta. 22 settembre. Egli mi ha donato un suo libro di poesia, La favola d'Ermafrodito, il 21° dei 25 soli esemplari, tirato su pergamena, con 2 prove del frontispizio avanti lettera. È una singolare opera dove si chiude un senso misterioso e profondo. Sebbene l'elemento musicale prevalga, trascinando lo spirito in una magia inaudita di suoni e avvolgendo i pensieri che splendono come una polvere d'oro e di diamante in un fiume limpido. I cori dei centauri, delle sirene e delle sfingi danno un turbamento indefinibile, svegliano nell'orecchio e nell'anima un'inquietudine e una curiosità non appagante, prodotte dal continuo contrasto di un sentimento duplice, d'un'aspirazione duplice, della natura umana e della natura bestiale. Nessuna musica mi ha inebriata come questo poema, e nessuna statua mi ha dato della bellezza un'impressione più armonica. Certi versi mi perseguitano senza tregua e mi perseguiteranno per lunghissimo tempo, forse. Tanto sono intensi. ...23 settembre. Quando parliamo insieme, talvolta io sento che la sua voce è come l'eco dell'anima mia. Accade talvolta che io mi senta spingere da un subitaneo fascino, da un'attrazione cieca, da una violenza irragionevole verso una frase, verso una parola che potrebbe rivelare la mia debolezza. Mi salvo per prodigio